Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici, buongiorno, sono le 11:11 del primo dicembre e da quando mi occupo di salute e benessere, ogni volta che leggo, penso, scrivo questa data, per me c'è una sola parola che immediatamente si scrive, si attiva nella mia mente: AIDS. Perché da quando l'AIDS è entrato nelle nostre vite, e voglio proprio sottolineare nostre, perché nessuno di noi può tirarsi fuori da questo problema, il primo dicembre ha significato per tutto il mondo un giorno speciale, non solo perché si celebra ufficialmente la giornata mondiale per la prevenzione dell'HIV, ma anche perché proprio in occasione di questa celebrazione si cerca di fare il punto della situazione. A che punto siamo allora con la prevenzione, la cura, e quali iniziative in questo momento tengono alta l'attenzione su questo problema? Si può fare di più, potremmo intitolare così la puntata di oggi, e vi invito subito a intervenire per condividere un po' questa riflessione insieme a me e insieme agli ospiti che interverranno. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. I messaggi 349 238 6666, abbiamo anche il nostro profilo Facebook. E a proposito di si può fare di più, sono in molti a dirlo. Sentite questa voce che parla e provate a vedere se riuscite a riconoscerla. AIDS is the biggest killer. L'AIDS è il primo killer per le donne in età fertile. È tempo per noi di fermarci e scattare una fotografia di ciò che è l'AIDS oggi, 30 anni dopo l'insorgenza dei primi casi. L'AIDS è qualcosa che ci riguarda tutti, non solo quelli che ne sono affetti. Non è qualcosa da chiudere in un piccolo ghetto. And we need to not put it into little ghettos. Oh, it only affects these people. Oh, it only affects those people. We need to get it into our schools. Noi dobbiamo fare entrare il dibattito sull'AIDS nelle nostre scuole per creare così un programma di educazione sessuale rivolto a tutti i nostri studenti. Non solo, dovremmo riportare al centro della nostra attenzione anche il problema del Sudafrica, dove la diffusione dell'AIDS è ancora molto alta. Vincere questa sfida deve essere per tutti noi una priorità. La guerra contro questo virus mondiale ci deve trovare tutti uniti. Troppe ONG lavorano coltivando il loro piccolo orticello, ma per vincere l'AIDS la parola chiave è unità, e noi dobbiamo promuovere una solidarietà che unisca la piccola battaglia di molti nella grande battaglia in cui tutti dovranno essere una cosa sola. La voce che avete appena ascoltato, alcuni ascoltatori l'hanno già riconosciuta, ma hanno già mandato un messaggio al 349-238-6666, è quella di Annie Lennox, la cantante divenuta famosa col gruppo degli Eurythmics, che da anni è diventata un'attivista molto influente per la lotta all'AIDS, tanto da aver creato una vera e propria fondazione. Il lavoro di Annie Lennox è uno dei tanti che stanno facendo la differenza per questa malattia. Lei, usando la sua celebrità, è riuscita a farsi ascoltare anche alla conferenza mondiale sull'AIDS del 2008. In studio con me Alberto Pellai. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi nella veste di ricercatore del Dipartimento di Sanità Pubblica, e quindi è un tema questo dell'AIDS, dell'HIV, che ti tocca da vicino e su cui tu lavori. Sì, riprendo proprio le parole di Annie Lennox e direi che per tutti gli operatori di sanità pubblica l'AIDS continua ad essere un problema di grande impatto, di grande importanza, un problema che colpisce a un livello macro mondiale e conseguentemente con una costante crescita in alcuni paesi dove la prevenzione è davvero ancora una parola invisibile, ma è anche un problema molto significativo a livello micro, quindi nazionale, ma soprattutto locale, in ogni famiglia dove ci sono dei figli. Proprio come diceva Annie Lennox, è fondamentale pensare a un progetto di educazione sessuale che promuova responsabilità a livello individuale e a livello collettivo, cioè proteggere una comunità dall'AIDS è un problema del singolo, ma è anche un problema del villaggio a cui ciascuno di noi appartiene, quindi è un problema della comunità. Ognuno di noi deve essere protagonista di prevenzione. Vi sentite protagonisti di prevenzione? Cosa dite ai vostri figli? Ne parlate? 800 24 00 24. E a proposito di Annie Lennox, tra l'altro proprio in questi giorni ha pubblicato pubblicato un CD bellissimo intitolato Christmas Cornucopia, di cui vi faccio ascoltare il singolo Universal Child. And I can see you, you're everywhere, your portrait fills the sky. I'm gonna wrap my arms around you, my universal child. And when I look into your. Stiamo ascoltando questo brano per più motivi, oltre che per il fatto che è bellissimo, perché ci permette di intuire lo spirito che anima questo progetto di Annie Lennox. Io trovo importante soprattutto un gesto di grande generosità e coerenza da parte di questa straordinaria artista, l'aver deciso di destinare tutti i proventi ricavati dalla vendita di questo bellissimo CD proprio alla lotta all'AIDS. Noi oggi ve ne faremo avere una copia, anzi direi la faremo avere a uno dei messaggi di prevenzione oppure di solidarietà che farete arrivare al nostro numero 349-238-6666. Scriveteci, perché oggi la prevenzione è così necessaria, oppure qual è la prevenzione che sperate di vedere attuata, o ancora mandateci un vostro messaggio che racchiude il perché oggi è necessario tenere alta l'attenzione su questo problema. Uno di voi riceverà, grazie alla collaborazione con IBS, il CD di Annie Lennox. Insomma, oggi faremo prevenzione insieme, lotteremo insieme, dobbiamo uscire dal nostro orticello, come sottolineava Annie Lennox e ha sottolineato Alberto Pellai. Il problema riguarda il singolo, riguarda la famiglia, la piccola comunità, il villaggio, il mondo intero, quindi è proprio una lotta quella che dobbiamo affrontare, direi meglio che una lotta, un duello, perché dobbiamo trovarci fronte a fronte con la prevenzione. Che state ascoltando è lo spot che ha vinto l'iniziativa HIV Video nel 2009, uno spot girato nell'estate 2009 presso le Cave di Vaste, in provincia di Lecce, e propone, lo sentiamo, proprio un duello tra pistoleri stile vecchio West, e termina con un motto finale, Alberto. Condoms can save your life. Che tradotto significa? Il profilattico, i rapporti sessuali protetti possono salvare la vostra vita. E lì con noi abbiamo Rosaria Iardino, presidente del network Persone Sieropositive. Direi forse la persona sieropositiva più conosciuta nel nostro paese, perché da subito non ha avuto paura a dare il proprio volto per la battaglia di tutela dei diritti del soggetto sieropositivo. Rosaria, benvenuta. Benvenuta, grazie a voi. Senti Rosaria, noi ti abbiamo invitata per raccontarci anche che cosa sta succedendo nel mondo della prevenzione dell'HIV e come il network Persone Sieropositive sta lavorando per dare, direi, un significativo contributo a questo duello, no? Guarda, noi siamo un'associazione di solo i pazienti, sì. Tuteliamo i diritti delle persone con HIV, ma di fronte al dilagare delle infezioni, ormai 4 anni fa abbiamo deciso di impiegare più del 30% delle nostre risorse economiche per lottare contro nuovi casi di infezione. E è altresì vero che al di là del condom party, al di là delle decine di migliaia di profilattici che stiamo distribuendo gratuitamente, quello che è accaduto ieri per noi è molto grave. Ieri io sono stata invitata a Palazzo Chigi a una conferenza proprio per celebrare la giornata mondiale di lotta all'AIDS, e nonostante il Papa abbia sdoganato di fatto la parola profilattico, anche se lo prevede con uso responsabile, ieri il Ministro della Salute, professor Fazio, ha enunciato che la sua strategia per la riduzione di questi numeri importanti sarà una sessualità responsabile, nel quale noi siamo tutti d'accordo, ma all'interno di coppie stabili. E lì io ho avuto, come dicevi te, io da sempre mi batto per questa patologia, ho avuto veramente un balzo indietro, direi quasi ad un accartèn, quando inviò ai 20 milioni di italiani, 20 milioni di famiglie, una lettera nella quale denunciava che la sua strategia era l'astinenza. Ora, dobbiamo avere il coraggio, il Papa l'ha avuto e io invito il governo ad avere altrettanto coraggio, a mettere tra gli strumenti scientificamente comprovati per ridurre questi numeri, perché è inutile che ogni anno ci raccontano quanti casi di infezione abbiamo se poi non ci sono strategie, e uno degli strumenti è indubbiamente l'utilizzo corretto del profilattico. Quindi noi siamo impegnati in questo. Io sono qui a Montecitorio adesso, insieme all'onorevole Concia presentiamo una proposta di legge per l'installazione di macchinette distributrici profilattici nelle università e nelle scuole superiori, accompagnate da materiale informativo. L'informazione Rosaria, io sono sicura che è proprio quella che può fare la differenza. Sì. Alberto, sì. Io vorrei, oggi tu sei proprio qui, non come papà di questa casa, non è un albergo, come psicoterapeuta, ma come ricercatore del Dipartimento di Sanità Pubblica. Vorrei anche un tuo commento a Rosaria. Allora, non c'è dubbio, ci sono tre livelli di prevenzione, una che è immediata e necessaria ogni volta che si ha un rapporto sessuale con una persona di cui non si conosce lo stato sierologico. C'è solo un'indicazione ed è proteggere il rapporto sessuale con il profilattico, e questo direi è il primo livello universale e necessario. Chiaramente ci può essere un progetto a medio e lungo termine che è entrare poi in una consapevolezza, in un modello di responsabilità, autodeterminazione nel comportamento sessuale agito, e questo sarebbe il risultato di un potente lavoro di educazione sessuale, affettiva, emotiva che dovrebbe cominciare dalla scuola materna. In Italia esistono decine di proposte di legge su questo, non sono mai arrivate da nessuna parte, e io magari provo a ricostruire il messaggio del nostro ministro. Speriamo che quello che lui in realtà voleva proporre è: voglio una nazione dove si potrà arrivare a essere sempre al 100% responsabili nelle cose che facciamo nell'area della sessualità, perché finalmente l'educazione sessuale entrerà in tutte le scuole del paese. Rosaria, arrivano dei messaggi per te, mi chiedono: ma è lei? Sì, è lei, è la prima sieropositiva che ha messo proprio il proprio nome e volto a disposizione della battaglia per la tutela dei diritti dei sieropositivi, perché rimane famoso, e non solo in Italia, la foto del bacio, no? Che ha fatto il giro del mondo, il bacio scambiato con il professor Aiuti, un bacio che fu fatto per dimostrare tante cose. Oggi ci sarebbe bisogno ancora di quel bacio, Rosaria? Ma guarda, forse no. Mi auguro di no, ecco, mi auguro di no. Di sicuro quello che c'è bisogno oggi è più chiarezza, che l'AIDS è una malattia che si può prevenire, è una malattia che si può curare, però diventare sieropositivi non è come rimanere sieronegativi. Ora c'è questa percezione che ormai ci sono le cure, quindi non importa, o che l'HIV non si muore più, insomma, di AIDS, ma allora le cure sono pesanti. Non importa se uno lo contrae o no, non è così. Io comunque volevo dirti che sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto. Manca però un passaggio fondamentale, cioè la consapevolezza di avere una sessualità responsabile, quindi volersi bene, e indicare la sessualità come un indicatore di qualità della vita, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità questo lo dice dal 74, è il passaggio successivo a una consapevolezza che la nostra sessualità non è male. Perché il punto, io me lo auguro anch'io che faccia volesse intendere, sì, quello poi... che è, però non credo, perché nel momento in cui poi, ti devo dire, Rosaria, che non mi piace mai parlare di commentare delle frasi senza i presenti, per cui torneremo sicuramente con il ministro, che io invito sempre volentieri a parlare di questo aspetto. Io starei più che sulle affermazioni del ministro, che possiamo, no, tradurre, spiegare in tanti modi, e Alberto sicuramente ne ha dato una un'interpretazione che condivido, tornare proprio a parlare della giornata di oggi, di questa sessualità consapevole, dell'importanza della prevenzione, soprattutto di come sottolineavi tu, è vero, oggi di AIDS non si muore, ci sono delle terapie, ma sono delle terapie che segnano, delle terapie pesanti. Io tornerei al tuo bacio, perché il bacio, Rosaria, è anche il titolo del nuovo romanzo di Ivan Cotroneo, da poco pubblicato per Bompiani. Ivan è in linea con noi. Ivan, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ivan, un grande scrittore che non abbiamo qui a caso oggi in questa puntata dedicata all'AIDS, perché lei è anche l'autore di una delle fiction più amate dagli italiani. Io non me ne sono persa una. Senti, qualsiasi cosa devi dirmi, io sono tranquilla. Adesso che mi hai detto che ti piaccio, mi sembra un miracolo, è una figata. Non so, anche se devi dirmi che hai sedita sul piede, che hai i peli sulla schiena, o che ne so, che sei un vampiro. Sono sieropositivo. Io sono sieropositivo. Da 4 anni. Era questo che dovevo dirti, Chris. Sieropositivo proprio? Sieropositivo? Beh, lo sai che significa, no? Certo. O almeno credo. Vabbè, normale, all'inizio anch'io lo sapevo tanto bene, però poi ho dovuto impararlo. Ma sto bene. Cioè, adesso è tutto sotto controllo. Pensa che quest'anno mi hanno addirittura sospeso la cura. Bene. Cioè, diciamo che io ormai ho imparato a conviverci. Cioè, sono gli altri che non ci sanno convivere. Tu, per esempio, che pensi? Scommetto che stai pensando che ti sembra un incubo. Che vorresti svegliarti e sapere che non sta succedendo a te. Guarda che è normale, non devi vergognarti. No, non è vero. Chris. Vabbè, io forse è meglio che vada. Rosaria, che cosa significa dire oggi sono sieropositivo? Cos'è cambiato rispetto a ieri? Poi so che tu devi scappare, ti salutiamo mentre Ivan Cotroneo lo teniamo blindato e lo riprendiamo dopo i mercati. Ivan Cotroneo e a tutti lo staff, il gruppo, noi li abbiamo premiati all'interno del Festival Internazionale del Cinema. Avete fatto bene. Perché sono proprio stati bravi a parlare di questo tema in prima serata su Rai, e secondo noi, oltre a dire le cose che non vanno, è giusto anche sostenere chi parla di HIV in questo modo, quasi a portarlo alla normalità. Oggi essere sieropositivi non dico che sia come negli anni 80 o 90, sono cambiati i problemi. Un tempo noi avevamo paura di morire e le terapie invece ci fanno sopravvivere. Di questa sopravvivenza però non corrisponde con un'inclusione sociale. Noi abbiamo tantissime denunce di persone che cercano un posto di lavoro a quali viene richiesto il test e non vengono assunte. Abbiamo tantissime segnalazioni di persone che vorrebbero farsi curare una banalissima caria, vanno dai dentisti privati o non li vogliono, o addirittura viene triplicato l'onorario, non si sa bene per quale motivo. Ci sono altri tipi di problemi, però ancora oggi resta questo stigma che è dovuto all'ignoranza, a questo stigma di essere sieropositivi. Quindi noi abbiamo tantissimi giovani, purtroppo, che hanno contratto l'infezione, che non lo dicono neanche in famiglia, perché hanno paura di essere ghettizzati e giudicati. Quindi, Rosaria, lasciamoci così, si può fare di più, ma molto è stato fatto, siamo in cammino. Sì, e se qualcuno vuole supporto, noi siamo sempre a disposizione con un ufficio legale, con per la tutela dei diritti dei malati. Sì, Rosaria, un abbraccio. Ivan, grazie, rimani con noi, vero? Sono qui, sì. Grazie, qui. Mercati. Ciao, Rosaria. Mercati, meteo 800 24 00 24, e poi di nuovo insieme. L'Highline SPA è ora rappresentata da Wyatt, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown, e più specificamente da Andrew Beckett. Bravo. Sì! Complimenti, Andrew! Sì! Bravo! Non so come ringraziarti per la tua fiducia nelle mie capacità. Cosa hai fatto sulla fronte? Andy, in questa stanza siamo tutti tuoi amici. Ho smarrito un ricorso importante, questa è la loro versione. Abbiamo parlato a lungo del tuo futuro e crediamo che per il grande rispetto che abbiamo per te dobbiamo essere sinceri fino in fondo. Scusate, mi state licenziando? Accetto. Signore, non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche? No, forse lei sarebbe più a suo agio. Beckett, come va? Avvocato. Hai trovato un difensore? Verranno dette delle cose al processo che per voi saranno dure da accettare. Voglio sapere tutto sulla vita privata di Andy, a quali gruppi di pervertiti appartiene segretamente. Non ho cresciuto i miei figli perché venissero mandati in terza classe. Andrew Beckett è il genere d'avvocato che mette fuori posto documenti importanti. Sono un avvocato eccellente. Andrew Beckett sta morendo. Lei rimase colpito dal lavoro di Andrew Beckett. Andrew Beckett è arrabbiato. Quale forza potente lo ha convinto a cambiare idea? E vuole che qualcuno paghi. Andy ha portato l'AIDS nei nostri uffici. Da quanti avvocati sei andato prima di me? 9. E dal grande schermo con Philadelphia al piccolo schermo, tutti pazzi per amore, in linea con noi Ivan Cotroneo. Ivan, buongiorno. Ribongiorno. Devo dire che lei è stato bravo e anche coraggioso. Come è riuscito a trattare il tema della sieropositività con tale delicatezza e come suggeriva anche Rosaria, sottolineando gli aspetti ancora negativi ma anche quelli positivi, che cosa le ha dato la sensibilità che il pubblico era pronto per questo passaggio in prima serata in una fiction, no, se vogliamo, puntata su, no, altri aspetti del quotidiano? Ma questa non è una domanda, è un complimento, mi imbarazzo a rispondere. Io bene, sono contenta perché glieli faccio veramente di cuore. Noi abbiamo soltanto pensato, io ho pensato insieme agli altri autori, che è arrivato il momento di parlare di sieropositività in una maniera in cui sul Rai 1 non si era fatto da un po', forse non si era fatto mai, e di avere un personaggio giovane, in gamba, perfettamente inserito, con una storia d'amore vera, credibile, insomma, in cui la sieropositività entra, perché appunto, come abbiamo sentito prima dall'inserto, il ragazzo Raul confessa a Cristina, la sua fidanzata, di essere sieropositivo. Dopodiché, e questo non si sentiva nell'inserto, comincia una storia d'amore molto bella, molto consapevole, molto responsabile fra i due ragazzi. Fanno l'amore in prima serata sul Rai 1 con il preservativo e noi abbiamo pensato che era una bella storia da raccontare. Quindi l'unica cosa, insomma, come dire, di coscienza che c'è in tutto questo è la coscienza che a volte le storie, i personaggi inventati riescono a farsi portatori di un'idea del mondo, o se vogliamo dirlo con un termine un po' più brutto, di un messaggio in una maniera forte, perché è come se lo raccontassero con le loro vite e quindi non con un esempio esterno. La sieropositività di Raul veniva rivelata nella serie dopo un po' di puntate, gli spettatori si erano, speriamo, affezionati a questo personaggio e questo a noi sembrava importante, insomma, sembrava come avere una persona di casa che dovesse affrontare questo problema e questa situazione, e questa è la forza delle storie. Alberto. Sì, tra l'altro è proprio una modalità che è stata molto usata nei paesi in via di sviluppo, quella di diffondere attraverso telenovelas e radionovelas, incorporando comportamenti protettivi nello stile di vita dei protagonisti e dei personaggi, e diffondere in questo modo messaggi di prevenzione molto significativi. C'è proprio uno studio sperimentale pubblicato relativo a un esperimento fatto in Tanzania, dove, essendo lì villaggi molto poveri, arrivavano solo le radio, è stata costruita una radionovela che ha molto appassionato gli ascoltatori, e si è visto che nel gruppo degli ascoltatori fedeli la messa in atto di comportamenti a rischio era notevolmente diminuita grazie al messaggio proposto dalla radionovelas rispetto a quello che succedeva in chi non ascoltava questo programma. E direi che è un esempio importantissimo di come i media, che possono essere dei terribili diseducatori, possono invece fare uno straordinario lavoro di educazione alla salute. Senta Ivan, direi io passo dal tu perché lei mi piace molto, a lei perché non ci conosciamo, quindi faccio un po' un tu, un lei, così. Va bene. Ecco, facciamo un po' un mix, perché anche il suo nuovo romanzo mette proprio sulla scena la fatica di ragazzi e adulti a stare insieme, ad attribuire significati a ciò che uno fa spesso in modo totalmente inconsapevole. Intanto già subito in diretta le strappo un sì, perché lei deve venire a trovarci in questa casa, non è un albergo. Sì, va bene così. Ecco, questo sì, assolutamente sì. E direi che con Alberto siamo proprio partiti dal suo libro, perché direi che è proprio un ulteriore manifesto e dimostrazione di quanto bisogno di prevenzione ci sia in età evolutiva, al tempo stesso di quanto gli adulti siano spesso incapaci di essere protagonisti di questa prevenzione necessaria, che è un po' quello che succede anche per l'HIV e l'AIDS. Sì, è vero, è un libro che ha per protagonisti due adolescenti e la loro insegnante italiano. È un libro, questo Un bacio, che si basa su una storia purtroppo vera, cioè su un omicidio per omofobia avvenuto negli Stati Uniti 2 anni fa, e anche qui, come per l'esempio di Tutti i pazzi per amore, io sentivo l'urgenza di raccontare qualcosa, un tema che mi stava a cuore, la difficoltà sempre in questo tipo di lavoro è cercare di portare appunto tutta l'urgenza del tema, però passando attraverso dei personaggi veri, dei personaggi che appunto possono far appassionare le loro sorti. Questo devo dire è stato molto evidente, perché io sto portando questo libro in giro, ci sono le presentazioni, ma oltre alle presentazioni in libreria lo sto portando nelle scuole, dove incontro i ragazzi che sono coetanei dei miei protagonisti e che quindi hanno storie di bullismo, di emarginazione, anche di omofobia da raccontare. Il confronto con loro su questi temi attraverso i personaggi e funziona. Sì. Allora Ivan, l'aspettiamo, ti aspettiamo, questa casa non è un albergo. Grazie, si faccia un giro anche, va arrivo. Bene, sì, va bene, così se vieni ti abbraccio. Grazie Ivan. Grazie molto, buon lavoro, grazie. E noi siamo tra i ragazzi, andiamo sulle università, ma non saliamo sui tetti, no? Perché poi Oscar Giannino lo sentiamo, noi ci mescoliamo, andiamo tra il nelle università insieme ai giovani del segretariato studenti di medicina, ai volontari del CESVI, che hanno sottoposto i ragazzi nelle università e nelle piazze di 32 città al Virus Free Test. È un quiz preparato da esperti per stimolare nei giovani la curiosità, la voglia di documentarsi sui rischi e sulle possibili risposte relative all'endemia. Lo ascoltiamo subito dopo, perché noi siamo andati ad origliare un po' le loro risposte, le sentiremo subito dopo la viabilità. Noi vi aspettiamo 800 24 00 24, aspettiamo anche il professor Moroni per fare il punto della situazione. Sulla situazione arrivano tante domande, ancora tanti dubbi, noi stiamo qui per voi, a tra poco. Il segretariato studenti di medicina, i volontari del CESVI, e io vi invito ad andare sul sito del CESVI, trovate molte indicazioni, trovate anche le risposte al Virus Free Test che noi abbiamo messo sul nostro sito e che ci permette un po' di misurare la nostra conoscenza su questo virus, quindi andate assolutamente sul sito del CESVI. Hanno fatto questo Virus Free Test, noi siamo andati ad origliare le risposte dei ragazzi, sono studenti universitari, andiamo. Che differenza c'è tra HIV e AIDS? Sono Emanuele, ho 23 anni. La risposta che avevo dato era: HIV è il nome del virus, AIDS è lo stadio in cui la malattia si manifesta. Come ci si può accorgere che una persona è positiva all'HIV? Sono Gabriele, ho 23 anni, solo con il test. Si può contrarre l'infezione da HIV usando lo spazzolino da denti di persone sieropositive? Mi chiamo Anil, ho 23 anni e sì, perché il virus si trasmette attraverso le mucose della bocca. Un figlio di due persone sieropositive nasce sieropositivo? Mi chiamo Domenico, ho 23 anni e a questa domanda ho risposto sì sempre. Esiste un vaccino contro l'AIDS? Allora, io a questa domanda avevo messo la A, sì, ma solo in pochi se lo possono permettere. In realtà, adesso grazie a questa conferenza del CESVI, ho scoperto che in realtà non esiste, ma sono in corso delle ricerche per sviluppare questo vaccino. Voices of friends vanished and gone. Perché le donne sono particolarmente colpite nel sud del mondo e in Africa? Sono Maria Laura e ho 23 anni, perché hanno meno accesso all'istruzione e faticano quindi ad assimilare i precetti della prevenzione. Il primo dicembre, quando parlo di AIDS, io non posso evitare di avere a fianco, per me è un grande onore, è quasi proprio una cosa che mi dà forza, coraggio, il professor Moroni, che è docente di malattie infettive all'Università di Milano e presidente dell'ANLAIS Lombardia. Professore. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la presentazione. Grazie professore a lei di essere qui con noi. E allora, molto gentile. Professore, lei ha sentito le risposte dei ragazzi, tra l'altro sono ragazzi studenti di medicina, quindi già un pochino più orientati. Non sono forse il campione più idoneo per dare la sensazione di quello che è lo stato di conoscenza medio per quanto riguarda i giovani. Perché si tratta di risposte fondamentalmente corrette. Ecco, forse quella dello spazzolino meriterebbe un approfondimento, in quanto il virus è sicuramente presente nella saliva di una persona sieropositiva che non si cura. Però la quantità è talmente bassa da rendere improbabile, assolutamente improbabile, la trasmissione sia attraverso il bacio che attraverso l'uso dello spazzolino. Anche se è buona norma che lo spazzolino da denti sia un qualche cosa che si usa personalmente, perché in bocca ci può essere di tutto. Professore, io direi che noi abbiamo, anzi lei forse all'inizio non era con noi, ma noi abbiamo intitolato la nostra puntata in Si può fare di più, ma partirei da quello che è stato fatto sino ad oggi e partiamo dai risultati raggiunti che per certi versi hanno del miracoloso. Poi affronteremo anche i lati bui, le nuove sfide, perché io ho imparato da lei questo, che quando si parla di virus le sorprese non mancano mai, ho imparato bene? Beh sì, assolutamente, insomma i virus sono dei microorganismi viventi e ubbidiscono alla legge più forte che c'è in natura, che è quella della sopravvivenza della specie. Così come noi uomini, anche loro fanno di tutto per eludere le nostre terapie e sopravvivere, e lo fanno con molta intelligenza e con molta efficacia, ad esempio diventando resistenti ai farmaci, oppure per quanto riguarda la trasmissione, approfittando di tutte le nostre fragilità, di tutte le nostre debolezze, delle dimenticanze che portano ad avere rapporti sessuali non protetti o che portano, fortunatamente oggi in modo molto più raro, a usare una siringa in comune quando si usa la droga come l'eroina. Professore, c'è un dato che lei dovrebbe aiutarci a leggere, i dati sono stati dati già nel servizio del GR, ma c'è questo aspetto, cioè cresce il numero dei sieropositivi, all'apparenza sembra un dato preoccupante, in realtà può essere letto in un altro modo anche, quale professore? Certo, partiamo da un serbatoio di persone sieropositive in Italia che è stimato attorno ai 150.000. Fino a 10-15 anni fa molte persone sieropositive morivano. Oggi con le terapie che abbiamo a disposizione la mortalità è diventata bassissima e limitata a quelle persone che non si curano o che si curano tardi o che hanno una serie di altri problemi per cui i farmaci non possono essere assunti con regolarità. D'altra parte si infettano sulle 5.000 nuove persone all'anno, anche queste sono stime perché dati sicuri non si possono avere. Queste persone vanno ad aggiungersi, ad alimentare il numero di persone sieropositive esistenti. Non essendoci più uscite legate alla mortalità, il vaccino delle persone sieropositive è destinato a incrementarsi. 5.000 persone all'anno sembrano poche, ma in 10 anni sono 50.000. 50.000 persone che si potranno liberare del loro virus, che potranno condurre una vita sufficientemente serena, perché oggi questo è possibile, ma con una serie di limitazioni nella loro vita affettiva. Cosa oggi non trascurabile,